con Michele Losi, direttore artistico della quindicesima edizione del Giardino delle Esperidi Festival, in quattro comuni della provincia di Lecco dal 21 giugno al 7 luglio 2019. Michele, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci racconti di questo festival partendo proprio dall'origine? Sì, certo. Questo è un festival che ormai ha 15 anni e in realtà è anche nato sulle ceneri di un festival precedente che si svolgeva a Chicago negli anni 90. È un festival che nasce in luoghi abbandonati, che adesso magari non lo sono più, ma che originariamente lo erano, in mezzo a boschi, tra cascinali, in luoghi abbastanza incredibili dell'Alta Brianza. Dico abbastanza incredibili perché solitamente l'Alta Brianza, cioè la Brianza è identificata con i capannoni e le fabbriche, in realtà questi sono luoghi che hanno ancora una forte componente naturale, non sono stati cementificati o devastati dall'industrializzazione, e quindi in questi luoghi abbiamo deciso di fondare 15 anni fa un festival che era molto molto molto basato sulla relazione con la natura, col paesaggio, col mettere gli artisti in una situazione particolare anche di ospitalità e residenzialità e il pubblico in una situazione particolare di partecipazione ad eventi che proprio per la natura dei luoghi diventavano molto spesso e diventano molto spesso comunitari. Cioè uno fa una passeggiata nel bosco, arriva nella residenza teatrale piuttosto che nella cascina, piuttosto che nel luogo allestito per fare spettacolo, e qui facciamo social dinner, per cui gli artisti, il pubblico, le persone del festival si incontrano, pranzano insieme, cenano insieme, si raccontano quelli che poi solitamente sono i temi che vengono trattati negli spettacoli, ma non solo, e poi c'è tutta una serata con due, tre, quattro spettacoli che durano fino a tarda notte. Questa, diciamo, è un po' l'impostazione che storicamente abbiamo dato a questo festival e che stanno ancora di più. Quanti saranno gli spettacoli ospitati in questa edizione? Mi sembra 24 spettacoli per 28 repliche, quindi una programmazione abbastanza significativa con 4 prime nazionali, 2 prime regionali, 3 anteprime, 5 concerti e poi soprattutto un'ottanta che abbiamo chiamato Dal tramonto all'alba, che avverrà nella notte di San Giovanni dal 22 al 23 giugno, in cui ci saranno 5 spettacoli, di cui uno lungo 8 ore, che durante tutta la notte accompagneranno il pubblico. Il pubblico potrà cominciare questo percorso alle 5:30 del pomeriggio e fino all'alba del giorno dopo sarà accompagnato da attori, musicisti, cantanti, performer, in un percorso che è molto legato alla natura e molto dedicato agli alberi, perché quest'anno ho dedicato il festival agli alberi come intelligenza forse superiore del pianeta. Forse meglio togliere forse, nel senso che sicuramente sono tra gli esseri più affascinanti e nello stesso tempo più intelligenti del pianeta, e quindi anche un tentativo di farci rendere conto di quanto gli alberi esistano, di quanto siano fondamentali. Ce ne sono 8 miliardi sulla Terra, 8.000 miliardi sulla Terra, sono 1.000 volte più di noi esseri umani, e spesso, cioè spesso, e hanno un'influenza estremamente positiva invece che dannosa sulla vita. Quindi, senza cercare moralismo, però abbiamo cercato di mettere il fuoco su una forma di vita che è estremamente positiva e più attiva per il pianeta. Come saranno organizzate le giornate nei luoghi e negli orari rispetto agli spettacoli? Abbiamo, diciamo, 3 domenicali per i ragazzi alle 11 del mattino nella yurta che abbiamo a Bestetto, che è una delle frazioni di Colle Brianza, e questi sono spettacoli dedicati soprattutto alle famiglie, ai bambini, alla primissima infanzia anche in alcuni casi. E invece per quanto riguarda gli altri spettacoli, solitamente la domenica ci sono degli spettacoli pomeridiani, gli altri giorni invece abbiamo i social dinner che sono alle 19:30-20, e poi da quel giorno in poi partono gli spettacoli per tutta la serata fino a notte. Una caratteristica del festival è che, pur avendo tante location diverse, quindi tanti palchi diversi, alcuni davvero in mezzo a un bosco, altri in cascinali, altri nella nostra sede che è Canziano Residenza, altri ancora in corti o in ville anche storiche significative, importanti come Casagola o Villa Suomi Vicenardi. Quello che cerchiamo di fare però è di non disperdere il pubblico da un luogo e l'altro, quindi ogni serata ha un luogo dedicato. Per luogo dedicato intendo magari anche due ville che stanno a 300 metri di distanza l'uno dall'altro, però l'intento è quello di addirittura al weekend, perché il festival è composto su tre weekend lunghi, abbiamo anche degli spazi in cui si può mettere, se vuole, la tenda, e piuttosto che i turismi, chiaramente la tenda intendo io per chi non intende spendere soldi per dormire, non si può fermare e stare qui tutto il weekend, quindi è un festival che cerca di essere festival, nel senso di creare una comunità tra gli artisti e il pubblico, la cittadinanza locale e tutti quelli che vengono. Questo è un po' l'idea di composizione. Per ulteriori informazioni e dettagli ci sono dei riferimenti internet? Certo, allora abbiamo un nuovo sito che è il Giardino degli Speri di Festival. Su questo sito ci sono tutti i dettagli, ci sono i dettagli sui singoli spettacoli, video e immagini, e ci sono anche le micro map, Google Map per facilitare il raggiungimento di questi posti che non sempre sono intuitivi e facilissimi, proprio perché sono un pochino fuori dalle rotte più battute, diciamo, dal pubblico e dalle persone. E allora ricordiamo la 15ª edizione del Festival in 4 comuni della provincia di Lecco dal 21 giugno al 7 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Losi. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto.